Manca davvero poco e qui al CERN di Ginevra inizierà l'incontro che potrebbe cambiare la nostra visione dell'universo. Tutti si aspettano che i fisici annuncino, tra breve, la scoperta del bosone di Higgs, l'inafferrabile particella di Dio per la cui ricerca è stato costruito il grande acceleratore LHC. La sua caccia dura da quasi 50 anni. In realtà, voci sempre più insistenti fanno pensare che i fisici abbiano trovato qualcosa che assomiglia molto al bosone di Higgs, ma che debbano ancora capire se coincide davvero con quello che si aspettavano. Basterebbe che emergessero differenze minime e cambierebbe radicalmente il modo in cui gli scienziati immaginano che funzioni l'universo o il modo in cui pensano che finirà. Potrebbe persino aprirsi la strada all'ipotesi di universi multipli. Di certo c'è la sensazione di essere a un punto di svolta. Nessuno trattiene l'eccitazione. In questo momento, in tutto il pianeta, a dispetto dei fusi orari, ci si prepara a seguire l'evento via web. Nel grande auditorium dove si sta per tenere l'incontro è tutto esaurito. In prima fila c'è un posto riservato per Peter Higgs, l'ormai anziano fisico che ha dato il suo nome alla particella più agognata della storia. Barbara Gallavotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ginevra.